L'intervento armato anche localmente è stato visto come una necessità nel momento, forse è arrivato l'intervento armato, l'intervento delle, di forze di pace, quindi diciamo di forze di pace per fermare il conflitto in Bosnia e Erzegovina e in Kosovo, localmente perlomeno è stato vissuto come una necessità, quindi una richiesta. Da qui però poi ad andare a valutare che cosa ha significato l'intervento e la presenza della comunità internazionale in queste aree, e non solo in queste, ma anche nelle aree anche in, con interventi umanitari, interventi finanziari, interventi economici, eccetera, in queste aree, in Macedonia, in Serbia, in Montenegro, quindi non solo Bosnia e Erzegovina e Kosovo, quali sono gli effetti da allora ad oggi. Allora, sul piano politico, io sintetizzo ovviamente, però possiamo dire che sul piano politico si è arrivati ad avere una situazione di mancanza di responsabilizzazione delle rappresentanze politiche locali e quindi rispetto alla popolazione che rappresentano. Faccio un esempio: in Bosnia e Erzegovina si sa che esiste un plenipotenziario, un altro rappresentante che di fatto ha il potere di destituire un ministro piuttosto che un sindaco, piuttosto che imporre delle leggi, imporre, l'esempio classico Mostar, imporre l'unificazione di una municipalità che era divisa invece in sei, eccetera eccetera. E quindi una deresponsabilizzazione e si è creata quindi oltretutto un ulteriore divario tra la popolazione e la politica. Questo è dimostrato dalla vincita nuovamente delle forze nazionaliste, che giocano su dei poteri locali molto forti, quindi con un sistema clientelare molto forte, con il controllo anche delle poche risorse economiche esistenti, frammentate ed esistenti sui territori. Qui quindi un sistema economico inesistente, quindi un'economia drogata, criminale, che ha mantenuto un tasso quindi di disoccupazione altissimo. Per quanto riguarda il Kosovo si parla del 70% della popolazione, tutto giovanissima, la popolazione più giovane d'Europa, per la Bosnia e Erzegovina 50%, un'economia grigia indotta dalla presenza della comunità internazionale, ma che poi non crea però lo sviluppo locale, nonostante la presenza della comunità internazionale una mancanza di elaborazione del conflitto. E quindi una mancanza per la maggior parte di questi territori di effettivo ricostituzione di un tessuto sociale tra chi è rimasto, chi è scappato e rientrato, chi ancora fa parte della diaspora e vorrebbe rientrare, eccetera, eccetera. E quindi mancanza di elaborazione del conflitto e mancanza di un processo di riconciliazione. Questo legato anche a una situazione in cui i criminali di guerra tutt'oggi purtroppo sono ancora presenti sul territorio, in alcuni casi che ricoprono ancora dei ruoli politici o amministrativi, perché non è stato riconosciuto ancora la loro partecipazione diretta a questi tipi di crimini, ma quindi un processo molto lungo. Questo in una situazione in cui però alcuni paesi si stanno avvicinando all'Europa, vedi la Slovenia tra i 10 paesi entrati quindi a maggio e la Croazia la prossima che entrerà rispetto all'area del sud-est Europa e che rischia di provocare ulteriori frammentazioni in un territorio che invece ha bisogno di riprendere dei rapporti di collaborazione sul piano economico, sul piano del movimento della popolazione, sul piano culturale, per poter rimettersi in piedi.